Florence Nightingale. Si può scegliere se vivere una vita all'insegna del piacere o dell'impegno. Le antenate che ospitiamo nella nostra scuola sicuramente appartengono a questa seconda categoria, come le nostre vecchie conoscenze Marie Curie e Louisa May Alcott, che fecero la loro parte nel ricucire in guerra ciò che il sistema patriarcale faceva a pezzi, ossia i corpi dei soldati. Anche Florence Nightingale, la madre ideale della Croce Rossa, onorò la sua missione di incarnazione, dando tutta se stessa, il suo coraggio e il suo talento per assistere i soldati in guerra. Florence nasce in una famiglia di ricchi proprietari terrieri inglesi nel primo ventennio del 1800. Nonostante il padre la istruisca in greco, latino, italiano, francese, tedesco, storia, filosofia e matematica, Florence si sente prigioniera di quella vita frivola e snob, vuole fare qualcosa di buono con il tempo che le è concesso. A 17 anni sente di essere chiamata a servire l'umanità e dopo aver respinto ben 3 pretendenti, a 24 anni annuncia alla famiglia di voler diventare infermiera, figura che a quell'epoca era considerata poco più che una sguattera con una pessima reputazione. La famiglia non accetta che una rampolla di così ricchi natali, anziché dedicarsi al ricamo e al pianoforte, si immerga nell'analisi dei rapporti sulla salute pubblica inglese. Ma Florence va dritta per la sua strada e, dopo aver visitato un ospedale per i poveri, gestito da diaconesse luterane in Germania, vi torna pochi mesi dopo per studiare e diplomarsi infermiera. Finalmente, constatata nell'irremovibilità, il padre decide di versarle una rendita di 500 sterline annue che le consentono di essere indipendente e dedicarsi alla sua missione. Florence inizia con il prendere in mano la gestione di un ricovero per gentildonne senza mezzi, ne rinnova completamente le infrastrutture, la contabilità e finanche la biancheria e inizia a formare il personale. Quando la Gran Bretagna decide di entrare nella guerra di Crimea accanto alla Turchia, Florence rimane molto colpita dalle notizie riguardanti i soldati feriti, quindi ormai inutili, tra virgolette, lasciati a morire senza assistenza. Da quel momento il futuro di Florence prende la svolta predestinata e con l'autorizzazione del ministro della guerra, suo amico di gioventù, parte insieme a 38 infermiere alla volta dell'ospedale militare britannico. Al suo arrivo lo scenario che incontra è agghiacciante. 10.000 soldati in condizioni disumane di sporcizia, abbandonati a se stessi e l'ospedale privo delle più banali attrezzature e con l'acqua razionata. Lavorando giorno e notte con la sua equipe, Florence, pur ostacolata dagli alti ufficiali che non tollerano le ingerenze di una donna, e dagli assurdi regolamenti che rallentano rifornimenti e operazioni, riesce a modificare il sistema imponendo soprattutto igiene e procedure più razionali. A sostenere l'operato di Florence è lo stesso Times. Tornata a Londra, Florence ottiene che una commissione indaghi sull'accaduto, crea un fondo Nightingale ed esige una completa riforma della sanità militare, ma le sue battaglie contro le gerarchie militari sono appena all'inizio. Dalla Crimea la sua voce accusatrice si sposta all'India. L'infaticabile donna scrive dossier e lettere a migliaia, a politici, parenti, amici influenti. Crea un vero e proprio staff che raccoglie i dati clinici che lei poi analizza e traduce per rendere le statistiche comprensibili. Non ha grandi cognizioni mediche, ma grande fiducia nella pratica dell'igiene, di una sana alimentazione e di un ambiente sano. Florence vive nel periodo storico in cui si assiste a grandi sconvolgimenti, soprattutto in campo medico. Nasce la biochimica, che permette di studiare le reazioni nei processi vitali. Si scoprono le vitamine, considerate come pilastri della vita stessa, e si pongono le basi per una corretta nutrizione. Si scopre per esempio che lo scorbuto, che mieteva moltissime vittime a causa della mancanza di frutta e verdura fresche, era provocato dalla carenza di vitamina C. Fu questa scoperta che permise a Florence di capire l'importanza della corretta alimentazione. E si compiono i primi passi anche nell'anestesia. Si inizia ad usare l'etere per sedare durante gli interventi chirurgici. Ma un vero balzo si fa nello scoprire il mondo dei microbi. Si comprende come questi siano causa di molte malattie. Negli ospedali del tempo non venivano assolutamente rispettate le più elementari norme igieniche. Spesso i chirurghi, dopo aver sezionato i cadaveri, correvano ad occuparsi, per esempio, dei parti delle gestanti senza lavarsi le mani, e infatti si registrava un alto tasso di mortalità per la cosiddetta febbre puerperale. Florence, con una buona dose di intuizione scientifica, inizia a stilare un rudimentale ma corretto studio epidemiologico, notando che là dove gli infermi per ferite da guerra giacevano in condizioni dove l'igiene era totalmente assente, le morti aumentavano vertiginosamente rispetto ai piccoli reparti creati da lei, dove le norme igieniche venivano rigorosamente applicate. Grazie a lei si cominciano a lavare e disinfettare le ferite, i ferri chirurgici, i letti, il pavimento, eccetera. Florence poi prende nota di tutti i dati che riguardano i reparti e li riporta su grafici che ancora oggi vengono usati. I famosi diagrammi a torta che sono stati inventati da lei. Come detto, dà molta importanza alla nutrizione, poiché nota che se ben nutriti, i malati si riprendono più velocemente. Per nulla spaventata dai microbi, ma assolutamente risoluta ad apportare un cambiamento intelligente nei suoi reparti, si dedica anima e corpo ai pazienti infetti e nel contempo istruisce le infermiere. Non ha paura del contagio, perché nota che i medici e le infermiere non si ammalano pur stando a contatto con pazienti infetti. Quindi realizza che ci deve essere qualcos'altro al di là del contagio, ovvero l'atteggiamento mentale delle persone. Si rende conto che il personale che sceglieva di curare gli altri possedeva come una sorta di garanzia immunitaria e che la paura rendeva vulnerabili all'infezione. Viceversa, l'abnegazione e lo spirito di servizio creavano una protezione. A rafforzare la sua tesi contribuiscono le molte testimonianze dei feriti di guerra, soldati che si muovevano impavidi tra gli scoppi delle granate, rimanendone illesi, o che dicevano di essere stati colpiti nel momento in cui avevano provato una forte paura. Lei stessa, alla fine dei suoi giorni, si rende conto di aver contratto la grave malattia che quasi la uccise, proprio in concomitanza con l'accusa a suo carico da parte dell'alto comando della guerra di Crimea. A 40 anni, quando crea la Training School of Nursing all'interno dell'ospedale St. Thomas di Londra, vi accetta soltanto poche candidate selezionate che, una volta diplomate infermiere, si vedranno riconosciuta una professionalità autonoma da quella medica, ma altrettanto indispensabile, sebbene non ancora retribuita. Virginia Woolf avrebbe portato alla luce l'argomento retribuzione femminile soltanto 70 anni dopo. Insofferente alla pigrizia e all'incompetenza degli uomini e alla frivolezza e mollezza delle donne, autoritaria e instancabile, fu chiamata come consulente negli Stati Uniti durante la guerra di secessione. A periodi si ammala gravemente e sembra in punto di morte, ma poi si riprende e senza più uscire dalla sua casa londinese continua a lavorare mentre la sua fama cresce. Tanto che nel 1872 viene creata la Croce Rossa Internazionale, si dice ispirata al suo lavoro. A 90 anni, Florence, straordinariamente longeva, si addormenta dolcemente, lasciando il corpo in questa dimensione. Al pari di altre maestre come Hildegard von Bingen e Maria Montessori, la sua lunga vita terrena è stata completamente messa a servizio dell'umanità. Florence Nightingale ebbe grande fama durante il suo passaggio terreno, ma come troppo spesso, anzi quasi sempre, succede, anche lei, una volta lasciato il corpo, è stata ignorata dalla storia patriarcale, insieme al suo straordinario lavoro, la scuola delle donne, è lieta di riproporne l'incredibile storia.